Allora, vorremmo iniziare intanto con quei pezzetti che abbiamo detto essere stati scritti sugli accadimenti nel mondo. E uno di questi pezzi si intitola Fuori dal coro. Giudicate voi quello che noi abbiamo voglia di dire a tutte. Avere un'opinione diversa dalla cosiddetta maggioranza da tempo non ci stupisce. Sarà perché da lesbiche è difficile inquadrarsi all'interno del gregge belante, pur con qualche distinguo. Ed è passato del tempo che ha permesso al polverone sollevato dai media di depositarsi. Così forse sarà possibile fare un ragionamento libero da pregiudizi, cioè da giudizi precostituiti. L'episodio al quale ci riferiamo riguarda la vicenda parlamentare di cui sono state protagoniste due onorevoli figure, Gardini e Luxuria, al Secolo, Guadagno. Ci sembra inutile riassumere l'accadimento che tanto spazio ha occupato nelle cronache. Basti ricordare che si trattava dell'uso degli onorevoli bagni. Ora, nulla ci lega alla Gardini, con la quale non abbiamo niente da spartire e che non ci piace. Non tanto per l'appartenenza forzista, ma per tutto quello che non fa, ad esempio, per le donne, nonostante la posizione che occupa. E tanto più perché usa impropriamente termini come stupro e sentirsi violentata. Da una pisciata di Luxuria. Oh Gardini, ma ti senti... Ops! Si sente bene? Le diamo del lei per mantenere le distanze. Ha idea di cosa significa essere violentata? Abusata, ridotta in schiavitù, picchiata e infine uccisa, come purtroppo accade a donne e bambine in tutto il mondo, eppure in Italia, che lei con forza dice di rappresentare. Li ha letti i dati sulla violenza sulle donne? Ma si guarda intorno? Ha visto quante poche parlamentari siedono alla Camera e al Senato? Povera. Forse il suo tempo lo deve impegnare per abbinare con decoro le scarpe con la borsetta e le mutande... Beh, con il resto della lingerie, e anche questi sono problemi, ci rendiamo conto. Ma anche con Luxuria, niente da spartire. Al di là del genere a cui si sente di aderire, caro Vladimiro, ci sembra che sul piano comportamentale tutto l'accomuni al sesso di provenienza. Infatti, mentre si è sentito di doversi tutelare dalla violenza dei maschi, che evidentemente conosce bene, non voglio metterle a disagio, non si è preoccupato affatto dei sentimenti delle donne. Le donne, si sa, tutto accolgono e dunque non è necessario chiedere il loro parere né preoccuparsi del loro eventuale disagio. Oh Luxuria, ma anche tu, Ariops, anche lei tanto bene non sta. Il lei anche in questo caso è d'obbligo per mantenere le solite distanze. Ma si guardi intorno, lì nel transatlantico le ha contate le deputate. Non sono tante, sa? Basta chiedere «Scusa, Steffi, posso andare nel bagno delle donne che mi vergogno di andare in quello dei maschi?» E la Presti Giacomo, capace che una pari opportunità gliel'avrebbe accordata. «Certo, la lotta dell'onorevole Guadagno è profondamente rivoluzionaria. Indovinate? Per ora le dichiarazioni che rilascia fanno presagire grandi cambiamenti. Lesbiche, gay, transgender, eccetera. Tutti, tutte insieme appassionatamente, desiderose di sposarsi e mettere su famiglia. Tutti uguali. Ma qual è il modello di riferimento? Per chi l'ha visto, il padre delle spose. Insomma, la famiglia di Rino Banfi. Ma ci sarà anche il medico? Lo speriamo davvero, perché anche noi non ci sentiamo tanto bene. Onorevole, lei che si intende di cessi di genere, se lo chiede come mai per i cosiddetti diversamente abili esistano solo bagni unisex? Come a mucca assassina. Lo sa, chi ha problemi motori e di stabilità, sulla tazza ci si deve sedere per forza. Che gli handicappati non abbiano diritto alla privacy lo sapevamo, ma che avessero superato la mistica dei generi, questa non l'avevamo capita. E lei? Oh, scusi, l'abbiamo disturbata, è occupata in altre faccende, forse a carpire la marca della cipria della Gardini. A proposito, perché non fate la pace? Magari vi sedete accanto, là su quegli scranni, ve lo meritate, anzi vi meritate a vicenda. Il problema è che toccate pure a noi e noi no, non vi meritiamo. Quella che state ascoltando è Margaret Menezes, de brasiliana, Tendo do Amor. spose, il padre e altro ancora. Lunedì 20 novembre 2006, ore 21 circa. La RAI, Radio Televisione Italiana, supera se stessa. È un tabù storico. Riconosce l'esistenza delle lesbiche, ne pronuncia il nome e infine le omogeneizza nel matrimonio e nella famiglia. Fagocitate in un attimo. Chissà cosa ne penseranno le italiane e gli italiani. La storia delle due donne è lieve, come lievi sono le finzioni televisive del momento. Una commedia, non un dramma, e ciò è tutto sommato positivo. Meno condivisibile invece, dal nostro punto di vista, il richiamo al matrimonio preso in prestito dalla vicina e cattolicissima Spagna, che consente alle due protagoniste di presentarsi in regola con le leggi della moderna civiltà eterosessuale, presentandosi come regolarmente e felicemente sposate. Una delle due nella precedente vita di etero aveva fatto in tempo anche a procreare, e così la famigliola è bella e fatta, due donne e una bambina. Mentre crediamo che tutte e tutti coloro che sono favorevoli ai Pax avranno acceso un cero al buon Lino Banfi per la bella pubblicità offerta in prima serata, dato che froci e lesbiche così ridotti non fanno paura proprio a nessuno, il Vaticano si è incazzato di brutto. Come si è usato in prima serata insozzare il sacro vincolo estendendolo, seppur sotto forma di rito civile, a quegli incivili invertiti di froci e lesbiche? Non basta far rilevare che Mamma Rai, prima della fatidica messa, no, non la messa domenicale, ma la messa in onda del programma, aveva avvisato urbi e orbi l'italica popolazione che il programma, per i temi trattati, era rivolto a un pubblico adulto. Per il Vaticano la popolazione è sempre infantile, il gregge ha bisogno del pastore. Bestie siamo e bestie rimaniamo, etero, omo o quello che ci pare, fuori dal sacro mandato siamo tutti e tutti ridotti a gregge. Il concetto di gregge è stato esteso anche alla politica dalla senatrice Binetti, la quale si fida ciecamente del parere dell'Osservatore Romano, tanto da intervenire nella polemica non avendo visto neppure la fiction. Ma seguendo per istinto quanto affermato dal suo sacro pastore, ha stigmatizzato la messa in onda del programma affermando che è altamente inopportuna una trasmissione che tocca un problema su cui ancora non si è discusso adeguatamente e che comunque non fa parte del programma di governo. Che dire? Meno male che l'esbismo non fa parte del programma di governo, saremmo state ridotte come Vladimir Luxuria, e cioè a gioire nel vedere i nonni portare al parco i bambini, polemizzare circa l'uso dei cessi della Camera dei Deputati, o a farci sponsorizzare da Bertinotti, che fortissimamente volle diventare la terza carica dello Stato e che dice che Vladimir è una bravissima persona e non fa male a nessuno. Forse è per questo che lo hanno fatto eleggere deputato. Lui è innocuo, ma entrambi si ritrovano nello schieramento gente nociva, come la Binetti, che dice scemenze evidenti, come quando si richiama al programma di governo, ma per quel che se ne sa fa parte dell'Opus Dei, e a loro risponde con una buona pace del centro-sinistra e del suo lacunoso programma di governo. Programma che, guarda caso, nulla prevedeva circa la vergognosa abolizione dell'ICI alla Chiesa, e mentre la finanziaria prevede per noi lacrime e sangue, il Vaticano riceve enormi regali votati da deputati come il già citato Luxuria, ma anche da Titti De Simone. Ci salva dal caporetto Grillini, che ha il coraggio di votare contro l'anomalo provvedimento. Tanto era dovuto, e ricordiamocene se e quando andremo a votare. Intanto ringraziamo Lino Banfi per essere stato così coraggioso da proporre due lesbiche in prima serata e sulla rete ammiraglia della RAI, una storia talmente lieve da sembrare una favola. Non siamo d'accordo su tutto, ma va bene così. Grazie Lino. Allora, questo deliziosissimo pezzo che ha letto Anna, volevo ricordare che è stato in realtà scritto da Angela e che ringraziamo qui per questo suo contributo, sono sempre deliziosi. Io volevo soltanto aggiungere una cosa che mi è venuta in mente ascoltando, anzi riascoltando questo pezzo. ma non faceva parte del governo. Ma che significa, Lucilla? Dammi conforto di questo, perché mi è venuto un dubbio amletico. Ma per caso le televisioni sono controllate dal governo? No, dicono tutti di no. Berlusconi diceva di Berlusconi, no, Prodi no, sta dicendo cioè, di no, quindi allora, le televisioni sono libere. Sono libere, e allora come mai questa dice che non fa parte del governo, per cui non poteva andare sulla Rai? Non fa parte del programma di governo, la televisione non fa parte del governo, non fa parte del programma. Del programma. Cioè mi mancava questa sottiglia, esatto, non avevo capito. Ecco, va bene. Ok, ascoltiamo un brano musicale che è meglio. Queste sono le Farawalla con Orangutan. We'll be right back. Allora, vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21, mentre il martedì femminista e lesbico inizia dalle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbtbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista ogni giovedì a partire dalle ore 21 al numero 06 68 64 201. Questo è un telefono fax e segreteria telefonica. Oppure ancora potete scriverci a CLR presso Casa Internazionale della Donna, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Vi ricordiamo inoltre anche la nostra mail, che è contatti@clrbp.it, e il nostro sito web, che è www.clrbp.it. Noi generalmente, quando veniamo qui alla radio, abbiamo anche un cellulare sul quale poter mandare gli sms. Io adesso vi ricordo il numero, voi li mandate, ma siccome ce lo siamo scordato a casa, li leggeremo tutti dopo e poi racconteremo che cosa ci avete scritto la settimana prossima. Però insomma, visto che non abbiamo il telefonino, qualche trillino ce lo potreste pure fare per farci capire che ci state ascoltando. Comunque, il numero della radio sul quale potete mandare, sicuramente adesso partiranno una serie di trillini che ci faranno compagnia, è 491750, mentre il numero del nostro cellulare è 338-4146-682. È inutile che diciamo che anche oggi ne aspettiamo tanti, perché non avendo il telefono grazie dei trillini, molto gentile, siete veramente delle amiche. Mandate pure qualche messaggio, giuro che quando arrivo a casa li leggo tutti, va bene? Ok, lascio un attimo adesso la parola a Lucilla e Anna, che, come abbiamo preannunciato all'inizio, parleremo un attimo, facendo un minimo di resoconto dell'iniziativa del 25 novembre, e inizieremo a leggere alcuni comunicati. Va bene, lascio la parola a Lucilla. Allora, io vi dico semplicemente questo, che il 25 novembre dalle 12 fino a oltre le 16 c'è stato il presidio in piazza a Largo Argentina, e diciamo che c'era un buon numero di donne e che abbiamo fatto un po' di azioni, come attraversamenti della strada, soprattutto quando passavano i pullman gialli della Opera Pellegrini, che abbiamo Roma Cristiana l'abbiamo bloccato. Sì, Roma Cristiana, no? Quindi abbiamo immediatamente bloccato, ne abbiamo bloccato più di uno, eccetera. Quindi esibendo cartelli di vario genere, le casette che altri gruppi avevano portato, anche la Casa Internazionale anche noi, delle Donne. Anche noi abbiamo portato le casette. E come no? Noi erano dei cartelli, insomma, per noi molto gradevoli e molto graditi. E niente, questo è quanto. Ci sono state iniziative in tutta Italia sicuramente, e ed è stato importante comunque che ci fosse la presenza delle donne in piazza. Posso dire soltanto una cosa al riguardo, che allora la partecipazione delle donne in tutte le manifestazioni che sono state organizzate in Italia è stata abbastanza grande. Peccato che le televisioni non abbiano fatto resoconto di nulla, insomma, pressoché quasi di nulla. È il solito discorso: o fai notizia in un certo modo o niente, e soprattutto poi dicono che le donne non dicono abbastanza. Ma evidentemente è così, non si dice perché non ci si fa comparire. Esatto. Detto questo, noi vorremmo leggervi una serie di comunicati che sono usciti. Uno è quello della casa, uno è quello che abbiamo prodotto noi come CLR, un altro è quello dell'UDI. E poi ci sarà una parte finale con le letture di Caterina, di testimonianze. Partiamo con il comunicato della casa, e inizia la lettura Anna. L'assassino non bussa, ha le chiavi di casa. Sit-in di Roma per il 25 novembre 2006, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Largo Argentina, dalle ore 12 alle ore 18. La famiglia, cellula costitutiva della cultura patriarcale, è la sede indiscussa della violenza degli uomini contro le donne, violenza che accomuna latitudini, etnie, religioni e classi sociali. Denunciamo che questa violenza non è un allarmante fenomeno sociale degli ultimi tempi, ma una realtà costruita in millenni di storia che affonda le radici ovunque. Riusciremo ad estirpare e a sconfessare il terrorismo familiare nonostante abbia complici innumerevoli. La strategia vaticana che riporta le donne sottomesse in casa, la deriva delle destre che protegge e rinforza i ruoli tradizionalisti che vogliono la donna come subalterna, il silenzio, troppo spesso complice della nostra società, che nei fatti legittima la famiglia come luogo delle relazioni fondamentali e la pone al centro delle politiche sociali. Il razzismo, sempre meno strisciante e sempre più esplicito, che cerca di convogliare il biasimo sociale sugli stranieri. E nessun si sente escluso. Continua così il comunicato della Casa Internazionale. Cercare di restare neutrali su un evento di violenza equivale a tollerarla e a legittimarla. Non c'è mai nessuna giustificazione alla violenza degli uomini contro le donne. Le donne, unite, dicono basta all'occultamento ideologico legittimato da istituzioni, religioni e mezzi di informazione, senza eccezioni. Usciamo dalle case e scendiamo in piazza per diffondere i dati della drammatica realtà quotidiana delle donne, i dati dei centri antiviolenza di Roma, quelli dei consultori, dalle molestie al femminicidio. 1600 donne l'anno si rivolgono ai centri antiviolenza di Roma, di cui l'89% subisce violenza in famiglia. Le donne uccise in Italia per mano di partner ed ex partner nel 2004 sono state 120. La violenza sessuata contro il genere femminile è estremamente diffusa anche tra gli occidentali delle classi alte, tra i bianchi e tra i cristiani. Per le parti del mondo con le lapidazioni, le mutilazioni genitali, le impiccagioni di donne colpevoli solo di essere tali, non aggiungiamo parole. La violenza patriarcale non riconosce l'altro da sé ed ha come obiettivo la cancellazione della sessualità femminile. Perciò il patriarca tende allo spengimento di ogni traccia di vita, ogni desiderio, anche il desiderio di reagire. Ma noi non ci sottomettiamo a questa logica. Non offendete oltre la nostra libertà. Esigiamo la cultura del rispetto sociale, della libertà femminile, anche per il lesbismo, così duramente colpito dallo stupro, dalla violenza e dall'intolleranza fascista. Le donne che scelgono altre donne come relazioni primarie sono oggetto di scherno e di odio, come tutte le donne che scelgono di vivere in modo autonomo. Chiediamo con forza che la violenza domestica rimanga fuori dall'amnistia, che si legiferi sui maltrattamenti e le persecuzioni dei partner ed ex partner, purtroppo fino ad oggi impuniti. Chiediamo inoltre un piano integrato per un contrasto alla violenza alle donne forte e determinato. La nostra è lotta per la vita, la libertà, la felicità. Non ci fermerete. Il Movimento delle Donne di Roma, riunito in assemblea il 20 novembre 2006 presso la Casa Internazionale delle Donne, via della Lungara 19, Roma. Comunicato del Coordinamento Lesbiche Romane per la manifestazione internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre 2006. Il Coordinamento Lesbiche Romane partecipa alla manifestazione del 25 novembre 2006 contro la violenza sulle donne. consapevole del fatto che la violenza sulle donne fisica, sessuale, psicologica, economica accomuna tutte le nazioni del mondo, dal primo al terzo, a prescindere dal contesto sociale, culturale, politico, religioso del paese o del singolo maltrattatore, e che le donne ovunque esse vivano sono collocate dalla società in una posizione di vulnerabilità, anche nei paesi occidentali, con leggi di tutela. Consapevole del fatto che proprio per quella diffusa e comune convinzione che la violenza, come ad esempio lo stupro, sia fatta d'opera di sconosciuti, magari drogati, alcolizzati, diseredati o da stranieri, e che le donne siano più protette a casa, poiché se si sanno comportare e vestire adeguatamente non possono essere bersaglio di quel tipo di violenza. Proprio questa convinzione, dicevamo, ha esposto ed espone le donne a quelli che vengono normalmente considerati problemi di coppia, del tutto normali nel contesto familiare, e che sfociano spesso, troppo spesso, in violenza domestica. Consapevole che è in corso una guerra quotidiana interna alle nostre case, perpetrata da sempre da parte degli uomini sulle donne, guerra che viene accolta con freddezza e noncuranza dalla cosiddetta società civile. Consapevole del fatto che tuttora, in fondo, viviamo in una società in cui non è un crimine costringere la propria compagna, moglie, ex convivente ad un rapporto sessuale obbligato con la forza fino all'omicidio. Ma vi partecipa anche, consapevole che la prima violenza inizia in una famiglia che costringe all'eterosessualità, senza alcun rispetto per gli individui, per gli individuali orientamenti sessuali, che ci si impone quotidianamente di piegarci e di condividere a un'eterosessualità obbligatoria, un metodo patriarcale che spesso entra profondamente dentro di noi e ci condiziona senza che ce ne rendiamo conto. Consapevole che in questo la famiglia non fa altro che assecondare la cultura e la società patriarcale di cui è espressione, e ne è, anzi, connivente. Consapevole che gli estremismi religiosi, i fondamentalismi e i clericalismi contribuiscono all'affermazione di un sessismo, cioè del potere e del dominio di un sesso sull'altro, violento e discriminatorio. Consapevole che perfino nel subire uno stupro, l'essere lesbica rappresenta un rischio ulteriore e un aggravante, perché spesso il maschio usa la violenza sessuale come metodo di cura del lesbismo, per costringere all'eterosessualità. Consapevole che stupro, violenza, lenocinio, pornografia, prostituzione, tratta delle bianche, eccetera, altro non sono, secondo quanto affermava Adrienne Rich, che gli avvertimenti del patriarcato alle donne. Noi crediamo che un vero cambiamento nei comportamenti, nelle mentalità, nelle forme del pensiero si possa avere soltanto con una profonda modificazione culturale, che passi innanzitutto attraverso i modi con cui la cultura stessa si trasmette, attraverso il linguaggio, per esempio, attraverso la formazione e soprattutto attraverso la relazione con le altre, perché mai vorremmo dimenticare che ogni donna ferita è una ferita per ogni donna. UDI, Unione Donne in Italia, 25 novembre 2006, giornata internazionale per contrastare la violenza contro le donne. Sappiamo da tempo immemorabile che la violenza non è il frutto dei guasti della società. I soprusi e i maltrattamenti fino alla morte sono il tormento continuo a cui le donne sono sottoposte per controllarne il corpo e moderarle. Qualche volta non è necessario passare ai fatti, basta la paura della violenza. Ci sono stati anni in cui noi donne eravamo colpevoli degli stupri che subivamo, perché i nostri corpi, per il solo fatto di esistere, erano responsabili delle sollecitazioni a cui i maschi erano sottoposti. C'è voluta tanta fatica per non viverci come vittime e c'è voluto tanto coraggio per imparare a raccontare e, con il sostegno reciproco, trasformarci in testimoni.

bei mir vorbei. Willst du mit mir gehen, wenn die Zeit mich nicht mehr hält? Wenn der Ruf der Welt von mir verstummt, fragst du nach mir und wartest du auch da vor meiner Tür. Willst du mit mir gehen, willst du mit mir gehen, willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen, immer wieder Brücken schlagen? Willst du mit mir gehen und auf neue Wege wagen? Und wenn der große Zweifel mich überfällt, bist du dann der, der zu mir hält? Willst du mit mir gehen, willst du mit mir gehen, willst du mit mir? Willst du mit mir gehen, willst du mit mir gehen, willst du mit mir gehen, willst du mit mir gehen, willst du mit mir? Willst du mit mir gehen, willst du mit mir gehen? Ok, allora vi abbiamo parlato lungamente della manifestazione, o perlomeno vi abbiamo fatto un breve resoconto della manifestazione, ma vi abbiamo parlato delle posizioni espresse da vari gruppi e da varie situazioni. Adesso vorremmo leggere alcune testimonianze che ci sono arrivate tramite un'iniziativa che vi andremo a dire, presentata da Pina Nuzzo, che l'ha lanciata insieme all'UDI nazionale. Ma per capire che cosa, qual è il significato della violenza che le donne subiscono attraverso la voce della loro testimonianza. E per questo vi leggo un pezzo introduttivo che ci ha mandato Pina. Le testimonianze che ascolterete sono arrivate all'UDI nazionale in seguito all'iniziativa che l'UDI stessa ha lanciato durante il presidio del 7 giugno scorso davanti al Parlamento, con la parola d'ordine Stop Femminicidio. Così l'UDI ha cominciato a chiamare quello che tutti chiamano omicidio, privando quelle morti della connotazione sessuata e non sessuale. Di fronte agli stupri e alle donne morte per maltrattamenti e violenza, l'UDI avviò una raccolta di testimonianze, tuttora in corso, chiamata Buste Rosa. Le testimonianze che leggeremo e quelle che verranno raccolte saranno presentate a tutte le parlamentari. Non ho paura di dire il mio nome, Gemma, perché è forte, duro e nasce da una mineria sporca e profonda che è quello che mi è successo. Sono uscita dall'oscurità e ho brillato intensamente. Avevo 16 anni quando il mio mondo scomparve e tutto quello che ero stata prima smise di esistere. Lo consideravo una persona meravigliosa, era il fratello maggiore del ragazzo con cui stavo da 6 mesi. Con il fratello le cose non andavano bene e spesso mi trovavo a parlare con lui. I nostri interessi, le nostre passioni erano vicine e simili. Leggevamo gli stessi libri e parlavamo di tutto. Perciò, quando mi chiese di fare una passeggiata in riva al mare, accettai. Fu lì che tutto ebbe inizio. Ci mettemmo a parlare su uno scoglio e mentre parlavamo, lui mi prese la mano tra le sue. Fu un attimo. Mi baciò, ma per me non era giusto. Suo fratello era il mio ragazzo e mentre gli dicevo che non era la cosa giusta e cercavo di alzarmi, tutto il mio mondo cambiò. Mi prese per i polsi e mi spinse a terra. Si mise sopra di me e mentre con il corpo mi teneva bloccata a terra, cercava di aprire la cerniera dei miei pantaloni. Io lo colpii, gli affondai le unghie nella pelle, ma anche se cercavo di alzarmi, lui non allentava la presa. Anzi, sembrava che più io mi opponessi, più lui si sentisse autorizzato a fare quello che voleva. Non ero mai stata con un uomo. Era la prima volta che accadeva e sentivo un gran dolore dentro, nel corpo e nell'anima. Non so quanto tempo sia durato, so soltanto che per me sembrava non dover finire mai. Una cosa a cui ho pensato solo dopo è stato che non ho urlato. Se l'avessi fatto, forse avrei cercato di attirare l'attenzione, forse sarei riuscita ad evitarlo, non lo so. Lui me lo disse rivestendosi: nessuno ti crederà. Non sapete quanto è stato stupido. Non avevo usato il preservativo e io aspettavo un bambino da lui. Avevo mille dubbi e forse il piccolo lo aveva compreso, aveva sentito il mio dolore, perché al terzo mese ha deciso di togliere il disturbo. Fu un aborto spontaneo, ma io non avrei mai scelto quella soluzione. Non avrei voluto che questo accadesse. Ora, dopo 8 anni, a 24 anni, non sono ancora riuscita a superare quello che è accaduto. Le mie storie hanno come una scadenza. All'inizio appaio dura e sicura e riesco a conquistare chi mi interessa, ma poi, quando apro loro il mio cuore, quando penso di essere al sicuro e di potermi lasciare andare, è allora che tutto finisce e mi ritrovo sola. Ma questo non mi ha distrutto, anzi, mi ha fatto capire che devo andare oltre i miei limiti, che non devo aspettare che arrivi qualcuno a sostenermi, a ridarmi la serenità, che devo essere io ad avere il coraggio di guardare oltre l'orizzonte, a ritrovare la forza di lottare per ridare un senso alla mia vita. Per avere il coraggio, e non solo la forza di alzarmi ogni giorno alla mattina, di uscire da una cappa soffocante che mi impediva di vedere, di sentire, di respirare, che rendeva tutto ovattato come in un crudele incubo, e di ricominciare ad esistere. Dovevo vivere, non solo sopravvivere, ed è quello che ho fatto. Ho stretto i denti, ho squarciato il velo e sono andata oltre il buio. Ho recuperato il coraggio e la forza di credere in me, anche se a volte mi trovo ancora ad affondare ed ad affrontare storie sbagliate e a lasciarmi abbattere da quello che mi circonda. Penso che sia normale in questo momento cercare di rispettare me stessa, di pretendere da me il massimo per ottenere quello che gli altri chiamano felicità. Anch'io ho il diritto di correre verso una luce che vedo negli occhi delle altre persone e che ancora non ho mai visto nei miei, se non quando fingo con gli altri di essere diversa. Ma ora ho scoperto che l'unica che ingannavo ero io, ed ho deciso di essere sincera con me stessa, di volermi bene, di non lasciare che il passato impedisca al futuro di essere meraviglioso. Allora, io chiedo scusa, queste sono testimonianze che io ho letto, ho riletto e ho riletto ancora, ma sono forti, e quindi l'emozione mi costringe ad interrompere qui, cioè io non ce la faccio proprio a leggerne un'altra, anche se me ne ero portate 2 o 3, insomma, non ce la faccio proprio, quindi... In ogni caso penso che anche questa sia stata sufficiente per far capire che quando si parla di violenza non è soltanto una parola astratta, perché va a toccare una sfera talmente tanto intima che è difficile poi recuperare. E nel comunicato che è stato fatto dall'Assemblea Permanente è stato usato un termine che è quello dell'assassino. Ora, l'assassino è stato identificato come tale non tanto perché fisicamente elimina una persona, ma perché uccide una parte di te, una parte importantissima di te. Ascoltiamo una canzone, che pure questa, come dire, non è niente di leggero. Sì, ti ringrazio, perché tra poco mi sento allora, male. Strange Fruit di Billie Holiday. La scelta musicale è quasi esclusivamente mia stasera, quindi se non vi è piaciuta e molto, diciamo che si è sentito, prendetevela con me, ma io amo moltissimo Billie Holiday e questa canzone in particolare. Questo pezzo sapete di che cosa tratta, e quindi noi crediamo di potervelo dare come chiusura per questo motivo. Vediamo appuntamento alla settimana prossima, martedì della prossima settimana. Vi ricordiamo che dopodomani, giovedì, 30 alle ore 19 inizierà il corso La donna spettatrice dell'arte presso la Casa Internazionale delle Donne in via San Francesco di Sales 1B e presso il Centro Femminista Separatista praticamente. E vi aspettiamo perché sarà una bellissima esperienza, saranno 6 incontri che faremo insieme 6 incontri, l'ho già detto. 60 euro, piccolo sì, contributo. Che faremo insieme, ogni incontro costerà 10 euro per un costo sì. complessivo di 60 euro che è appunto per pagare le spese sì. e la terapia in Anuzzo e tutte insieme faremo noi questo viaggio. Noi siamo ansiose di che cominci questo corso, io personalmente veramente non vedo l'ora che inizi. Allora, detto questo, parte il pezzo musicale, vi salutiamo. Ciao, a martedì prossimo. A martedì, ciao a tutte. E ricordatevi che dopo e tra il corso di Pina Nuzzo, La donna spettatrice dell'arte, di qui a quando si farà, ci sarà la lesbotombola. Ah, già. Il 16 di dicembre, intervenite numerose, ci sono ricchi premi. E Cotillon. Esatto, no, e Cotillon no, ci sono ricchi premi. Niente Cotillon. Manda il pezzo. Vabbè. Ciao. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on.